test CQ, CQ canale 10. Perché non l'aveva visto? Ma non l'ha visto. Ora Come dice? Vabbè, anche tu ci sei in questa valle di lacrime. Ci sono anch'io in questa valle di lacrime. Ci sono anch'io. Ciao Gianfra, buonasera. Pace e bene a tutti. Pace e bene. Salve. Bella giornata, bella giornata, però. Così. Adesso c'è troppo caldo, scommetto. No, questo è niente, aspetta martedì, dovrebbe salire ulteriormente. Io poi ho cose familiari qua, quindi off limits il mare e uscire. E chi è che non è? Tutti ce l'abbiamo, purtroppo, quindi come si dice, è roba che senti molto spesso. Io credevo foste tutti al mare a mostrare chiappe chiare, invece qualche sopravvissuto c'è. La propagazione non è eccezionale come altre volte, c'è più propagazione quando è nuvoloso il cielo. Quando è troppo soleggiato, meno, è tutto un mix di roba più bassa. È così, che ci vuoi fare? Sì, sali e scendi. Sì, allora, per la cronaca sto utilizzando, non ho idea di come sia la timbrica, il microfono KPO con la Linco. Messo a metà, il microfono a distanza 5 dita. Ma per me va bene, non è che ci siano problemi. Fammi sentire un po'. È nata Linux, che sono da molto che adesso non lo sento, ogni tanto sparisce, ricompare, c'è, non c'è. Nata lì, no? Fatti vedere. Guarda, come mi vedi a colori. Ti vedo con vocione rispetto a Marco e col televisore al massimo, ma scommetto che ci ha attaccato anche un amplificatore audio da 500 watt sul televisore. No, già ce l'ho l'amplificatore, ma il televisore è bassissimo. Aspetta un attimo che lo spengo, tanto la 50 se n'è andata. Stavo facendo dei compiti. Sto facendo il calcolo, ho capito, solo a casa mi si faceva il conto di quanto deve alle polacche. No, io non sono mandrone come te, io sto facendo un corso e quindi devo studiare, non sono come te, hai capito? Ah, stai studiando tu, ho capito. Cos'è? Che calcolo è? Matematica, elettrotecnica? Matematica. Mamma mia, pucci. Guarda, meglio le normative, molto meglio le normative che non i calcoli. A quando finirai tu di fare tutta quella cosa, te lo fanno in presenza, vedrai. Scusa Gianfra, che stavo mettendo a posto qua tutte le scartuffie e la cosa. No, ho detto, a quanto stai a finire di tutta questa cosa? Magari finiscono di farlo online, che è facile, e te lo fanno in presenza, magari a Roma. Speriamo di no, se no gatta non ci va, lui a Città Cagliari o a Roma non mi va bene. E poi sono 60 domande lì, non è come quando ce lo fanno online. Appunto, ti devi sbrigare a approfittarne, perché sennò poi ti chiudono la porta. Adesso che ne potevi approfittare già da tanto, da quando c'era. Tanto non è che tu c'hai tutti questi grandi impegni, sei sempre lì a mangiare. Diglielo tu, Marco. Sì, Natalino, si dà sesso, droga, rock and roll, cibo, vero Natalino? Ma perché? Perché mi avete preso per Natalino Condor? Natalia, è vero che mi hanno detto che ti hanno visto vestito come Maneskin, che sei un grande appassionato di quelli lì. Marco, tu ne sai niente? Ah, non lo so, io so che la bassista è Bonaretta. Ah, io pensavo che fosse il bassista, perché non si capisce molto. Non si capisce chi è maschio e femmina in quel gruppo, però sono orecchiabili, dai. Vabbè, per me che sono un po' rocchettaro, coso, sono orecchiabili. Io non commetto, non mi esprimo, non, in quel campo non sono in grado di dare nessun giudizio, quindi... Ecco, posso dire solo, sono molto pittoreschi, però Natalino così con quei tacchi lunghi, belli grossi e corposi, insieme all'altro, come si chiama? A Damiano ce lo vedo, a braccetto, ogni tanto ci scappa un bacetto, vero Natalino? Pucci. E tu sei già con la mentalità vecchia, avessi 50 anni in meno, ne vedremo delle belle, vero Marco? Poco fa verissimo c'era questa creatura con i capelli platino e sono entrato in camera di mamma che lo stava seguendo e ho detto ma di nuovo vediamo questo trans in mezzo, e mamma ha detto come trans, quella è una donna, ma che trans, e quello era ben truccato e quindi non ci volevano le rughe, quello ha un nome strano, ormai tutto il mondo dello spettacolo è tutto travestiti, cosa, praticamente fai carriera solo se sei un po' così, di questi strani. Per essere molto più giovane di noi sei molto molto indietro, tipo anni 50, mi sa Marco, così è nata lì. E allora, dopo tanti anni, lo sai a chi ho visto Gianfra? E chi? A Vittorio Giovine, lo sai che quanto è me, c'ha la mia stessa età, anzi un paio di mesi più vecchio è. Io pensavo che era più giovane. Diciamo che sono un po' che non lo vedo, che non lo incrocio. E come sta? Già sta bene. Non sarà vecchio come noi. Ho detto che, guarda, pensavo fosse più giovane, invece c'ha la mia età, è più vecchio di me di qualche mese. Visto. E così basta mantenersi in forma. E tutto va quasi bene. Non bene, ma quasi. Marco, tu invece ne hai almeno 30 meno di noi, così. Non ce n'è più vecchio di lui. No, vabbè, 30 e meno, no. 20, saranno 20, 25 e meno. Però, vabbè, io sono abbastanza lamentoso, eccetera. Poco fa, sai cosa, quando hai detto pittoresco, mi hai ricordato una cosa sepolta nella memoria. Allora, c'era un telefilm, anni 60, che davano alle reti Rai, di questa coppia di anziani inglesi. Il marito si chiamava George e lei Mildred, no? E questa era solita commentare delle cose particolari che vedeva, sentiva con l'accento inglese. Oh, molto picturesco, te lo ricordi? Quella serie lì. Yes. Sì, ma infatti era intitolato Mildred e George. Io dico la cosa, invece mi ricordo la macchina che avevano, era quel quadrato che dovrebbe chiamarsi Royal come marca, se non ricordo male, era quella macchina che c'era tre ruote ed è famosa quella macchina perché è quella che butta fuori strada sempre Mr. Bean quando è a bordo della sua Mini Morris. E lui la odia proprio a Mr. Bean quell'altro. E mi sa che era quella che c'aveva anche Mildred del Giorgio, che lei era terribile poi anche col marito, la tipica moglie che sa tutto, che vuole fare tutto, che è predominante nel rapporto di coppia. E così. Te lo ricordi, sì, Marco, la macchina? Allora, proprio quella del film no, però ricorrentemente quei telefilm inglesi oppure quelle serie, quelli che mettono a posto le macchine, no? Quello spilungone briciolato e l'altro tracagnotto e... che hanno trattato anche quel tipo di macchina, mi pare, a tre ruote, solo che quella è, mamma mia, se non sei attento, se sei veloce in curva, secondo me si incorica, sono un po' ambigue. E tu ce l'hai presente, Natali, con la macchina? Quella a tre ruote, sì. Guarda che quella comunque cioè non è una macchina così tanto per dire, è una macchina che ha fatto storia, innanzitutto probabilmente è tra le più brutte che abbiano mai fatto, no? Perché è un quadrato, è una scatola di scarpe con tre ruote, e l'interno devi vedere, l'interno è, guarda, ci sono dei filmati su YouTube che ce n'è da veramente da cadere a terra dalle risate, c'è il cruscotto che è tutto un rettilineo, una smarra, e qui c'è questo con forse un contactometro, non si capisce bene, poi c'è un buco dalla serratura per avviare, se si avvia, e le marce non lo so, questo non me lo ricordo, e i finestrini credo che siano di quelli, non a manovella, ma si abbassano e poi si devono bloccare, ma è una cosa micidiale. Gli inglesi come designer sono la fine del mondo, veramente. Se fa una cosa brutta, Gianfra, guarda che credo che sia, non cosa, Reliant Robin. Reliant, scritto Reliant Robin, non Royal. Io penso che Falcone, mi stavamo parlando giusto di quello. Anche Claudio è un appassionato di Maneskin. Sono appassionato di altro. Ascolta, buonasera a tutti, intanto Marco, Mandarino, Bimba, a tutti. Certo, ho bisogno di te, devo fare delle prove in HF, che è un montatore verticale. C'è un problema in 40 metri, non capisco perché. Ricezione da favola, trasmissione stazionale 5. O c'è qualche corto, non so, ricezione buona, trasmissione non ho nessun accordo, perché c'è una bobina unica per tutte le bande, non capisco, vabbè, quello però vedrò quando sento Marco, vediamo cosa può essere successo. Quindi sono attivo in 10, 15, 20 e 18. Siamo iniziati in 15 metri, 21, 210, così facciamo, vediamo un po' se l'antenna esce. Ok. Sì, va bene Claudio, mi devo solo scegliere l'apparecchio, voglio usare quello piccolo, tanto non siamo vicini, non è che c'è bisogno di grandi potenze, quindi uso quello che consuma di meno e che mi dà la possibilità di andare sempre a energia solare. Allora, dimmi tu la frequenza, così anche Natalino, magari eccetera, ci ascolta. Non andare a risparmio, Gianfra, ho bisogno di un apparato serio che mi dia controlli seri, non che riceve il 50% perché stia andando al pannello solare. Attacca un apparato serio, devo avere i controlli seri, perché domani devo appunto capire se è tutto a posto, se no deve venire Marco per lui a controllare. Perché secondo te, i tuoi calcoli, i miei apparati non sono seri, apparato super serio, non serio, l'unica cosa è che abbassa potenza, però è molto molto serio, c'è un ricevitore spettacolare, trasmettitore ottimo, quindi io apparecchi giocato non ne ho. Posso provare apparecchi giocato, non mettere potenza minima, perché devo vedere anche la ricezione, cioè in HF dammi almeno una cinquantina di watt, non uscire con un watt, se no come cazzo faccio a capire la ricezione com'è, capito? Tutto lì, non mettermi potenze minime in trasmissione, io sono con la massima potenza della radio, dovrebbe essere 100 watt in piedi, ok? Quindi dai, vabbè, allora io sono a 21-210, 21-210, no? attimino, però aspetta che mi sta scurando il telefono. Ciao Claudio, ben sentito. Va bene, fate allora, fate questa prova. Nathalie, un attimino che... Anche tu ci vai, Marco, se no io rimango qua. No, no, un attimo, aspetta, aspetta. Sono qua, un attimino. Ehi, fai, fai. Parla, parla pure, Nathalie. Tanto siamo qua. Un attimo, il telefono. Tutti al telefono. Attenzione, 10. Hola, hola. Sono tutti al telefono. Antu. Oi, buonasera, ciao. Ciao Antu, buonasera, buona domenica. Noi eravamo qua, c'è Marco, c'è Natalino e c'è Claudio. Però tutti impegnati un po' a destra, un po' a sinistra. Quando era? No, ieri mattina ho visto la tua antenna del QRL. Un po' bassa, ma imbatte parecchio. Già, ok, mi imbatte già. E mi si è bruciato la parecchio adesso devo buscarne un altro. È andato in Lamara. E come ha fatto a bruciarsi? Si è staccato il filo di un coso, l'ha toccato e è andato in Lamara. Siccome c'è l'alimentazione con l'apparecchio, e non ce n'è andato in Lamara, è paziente. E compri una da 13, ce ne sono che costano pochissimo. Una da 13 giusto per stare lì senza problemi, non c'è bisogno mica di avere apparati grossi. Quando va giù le dinamelo con pareggio. Ah, non mi interessa, adesso mi interessa mettermi a posto il karaoke e poi. Anche quello si è rotto. Anche quello si è rotto. No, quello me lo sto installando per lavorare. Ma funziona anche questa? Questa è un'antenna piccola. Sì, ti sento abbastanza bene. Senza problemi. Quanto è il segnale? Sì, questo è a LED, quindi prendilo come molle, sarà 8-9, ma indicativamente non ce la faccio affidamento. No, a 9-5 arrivi tu e cosa? Però volevo provare a vedere com'è, lasciami. La ringo è migliore, dai. Io sento una specie di rumore di vento là, non so. C'è il ventilatore acceso, c'è. Ah, ok, vabbè. Va bene, tutto lì. Anche Natalino è sparito. No, stavo parlando che qualcuno ha visto Natalino vestito come Maneskin, che stava andando in discoteca. Stava bene, c'era questi tacchi lunghi. E poi questa cosa aderente che, guarda, sembrava un altro adesivo. Caffa. E ne faccio un Natalino così. Mi sa Gianfranco che era al telefono. Ciao Anto. Allora, 21-210 Gianfranco. Sì, scusa Anto, che dovevamo fare questa prova con Claudio. Guarda, io ci sono già. Quando vuoi chiama? Riferimento 525, ok, non qua, se non risolviamo. Ci sentiamo dopo ragazzi. Sì, sono anche là. Va bene, non c'è problema. Hola, hola. Attenzione, brecco! Quello di giro è cortito e ti la stessa, ma che male fa? Se parla e gioca per il corpo. C'è qualcuno vivo qua? Insomma, sei vivo, dai, accontentati, zombie. Sono tutto affannato. Beh, avete risolto? Sì, abbiamo risolto. Abbiamo risolto, ho fatto delle prove e niente, sto facendo, mentre parlo con te, anche dei test. perché sto collegando un bluetooth della radio all'auricolare, su uno va, però non so se trasmette pure, boh. Sì, se stai usando quello trasmette pure bene. Claudio è rientrato? No, poi abbiamo interrotto perché è arrivata gente a casa, comunque avevamo già finito e quindi è andato via perché c'è gente a casa adesso. Sì, Natalino è rientrato, che c'avevo il volume quasi a zero, non mi ricordo. No, si sta cucendo la calzamaglia. Questi belli variopinti, vabbè, poi c'è il filo del discorso. Che sono ricordo più. Stavo parlando anche delle altre ruote. Chissà se andavo a benzina normale quell'affare. Ma penso di sì. Guarda roba di segnali, gira mi coprono. No, c'è lo squalcio alto, è entrato anche Antonio poco fa, ha detto che si è guastato un apparecchio, quello del lavoro, e quindi adesso lì è senza. Sì, chi è che si è giù quindi sul ponte amatoriale, col bip. Sì, allora c'ero la foto di questa macchina, sembra una specie di 127 uscita male, proprio fatta a forza, non cerca di capire, con i fari della Ritmo, in questa foto ha i fari tondi, senza le ruote laterali, come se proprio non gli avessero fatto né ruote laterali né passaruote, ma questa ruota centrale è una cosa inguardabile, in più questo è un giallo vomito di colore. Quindi Mr. Bean, che tra l'altro l'attore insomma, è un cultore delle macchine di un certo tipo, no? Maserati, Jaguar, un'altra tipo quella di James Bond, ce le ha tutte, è un collezionista d'auto di alto livello, quindi anche come personaggio Mr. Bean la odia. C'è uno sketch, no? Che Mr. Bean sta chiedendo un passaggio e si ferma proprio una di quelle di quelle lì e si rifiuta di salire sopra, capito? Sì. Qua ce n'è una anche con i fari rettangolari, altrettanto brutta, addirittura i fari fendi nebbia, vabbè lì la nebbia ce l'hanno. E poi c'è anche una foto dove si vede la macchina capottando, cioè come fai a fare una curva veloce? A quel punto era meglio mettere davanti le ruote, le due ruote e una dietro. Non so se il risultato cambiava, poi mettendola davanti era anche più semplice, no? Con quello scherzo che canta. Comunque in Inghilterra adesso non so se ne sono rimaste, ma le sistemavano un pochino quelle auto e ci facciamo le gare, tu devi vedere queste macchine capottate, perché bastava un piccolo urto e si capovolgeva la macchina, quindi facevano queste gare con queste macchine tutte uguali che te ne scappava la risa e tutte andavano a pancia all'aria. Sì, praticamente era una gara di capottamento. Allora, qua sto guardando altre foto, c'era anche la Reliant Rialto, che al posteriore è ancora più squadrato, sembra un fiorino. E poi vabbè la Reliant Robin, quella che abbiamo detto. Quelle non fatte altre anche con ruote anteriori, ma tipo anni 40, tipo la del 53, no, nel 53. Messerschmitt, produttore di aerei Messerschmitt, il modello Kabinenroller. Sì, Kabinenroller, è una specie di topolina o di una balilla con due ruote avanti e una dietro, mi pare. Sì, inguardabili proprio. Sì, però vedi, i tedeschi ci avevano più gusto. Guardati quella, ad esempio, quella della seconda guerra mondiale, no? Che c'erano modelli che erano anche anfibi, era nato di norma scoperchiata. e dietro, oltre a fare la marmitta rialzata, quelle cose lì, c'aveva anche l'elicchetta, e con questa elica poteva guardare i fiumi, dei laghetti e così via. Ed era la tipica macchina degli ufficiali e delle truppe della Wehrmacht, capito? Quindi sicuramente è un 4x4. Ma sto guardando altri modelli, c'era anche la Nobe, non so di dove sia, nemmeno da dove provengano, comunque è molto simile a quella lì inglese, però sempre due avanti e una dietro i ruote, capito? Poi mi pare carrozzeria, le Reliant forse erano in vetro resina, vero? Non era metallo? No, penso che fosse in metallo, se non era metallo sarà fatta plastica, perché la vetro resina non so se esisteva già a quell'epoca o se era usata comunque. Era un metallo fino, o lamierino proprio, sicuramente a posto di metterla in moto per fare manovra ti conveniva alzarla e metterla a mano. Sì, delle trappole, ne sto vedendo una, è una foto in bianco e nero, non so se sia anni 40 o 50, si chiama PEL 50, è scritto così, e ha un faro solo al centro, è ancora più piccolo, è una specie di scatoletta che contiene a malapena la sagoma umana, non si capisce quante ruote abbia perché non è, la foto è tagliata, ma è una cosa terrificante. E poi sono le foto delle famose Charlie Camel che vedevo in Italia negli anni 70, tipo la Sulky, scritto Sulky, salti tre ruote, non so che nazionalità sia, quindi come si pronunci, quelle noi chiamavamo Charlie Camel, la usavano i ragazzini, usavano le motori 50 a due tempi. Sì, vabbè, ma gli italiani hanno un diverso stile. Tu guarda anche, non so se te le ricordi, c'erano fino a qualche decina anni fa in giro le moto di quelli che trasportavano roba varia, no? O in cantiere, quelle altre ruote erano delle Guzzi e dentro c'avevano il coso, il motore al centro tra un passeggero e l'altro, e le ruote erano anche abbastanza alte, motocarro lo chiamavano all'epoca, ed era stato fatto anche nella seconda guerra mondiale quel mezzo lì, c'erano tantissimi, non so se te lo ricordi, ed era un Guzzi. Allora, no, proprio quel modello no, però ricordo una specie di motocarro, forse non so se era roba russa, tedesca, sicuramente sono derivate da quelle, che avevano un motore proprio tra i due passeggeri, c'era un qualcosa di sporgente ed era, sì, credo fossero parti dal motore, una cosa allucinante. Beh, sempre quello, quasi tutti gli autocarri, il CM50 ad esempio, ce l'avevano al centro questo motore, o perlomeno arrivava fino al centro, infatti un casino faceva, eppure era un autocarro diffusissimo che andava anche molto bene, sempre anni 50. E poi, non so se tu te li ricordi, non è neanche nato, ma i tram verdi che c'erano a Sassari, quelli Fiat OM, quelli c'erano lo stesso, il motore centrale, c'era il conducente, alla sinistra c'era questo motore, erano verdi ancora. Guarda, il verdi proprio non credo di ricordarmeli, non so fino a che anno li abbiano fatti, io credo di averli conosciuti sempre sul arancio, giallo o qualcosa del genere. Come molte persone a Sassari della mia età o anche più grandi non si ricordano che in Piazza Castello c'era quella specie di, non so come chiamarla, il TARDIS, quella palina per chiamare la polizia, che aveva una specie di citofono e aveva un mezzo tettuccio con la scritta polizia e il lampeggiante sopra, forse giallo. È rara trovare anche la foto. Non se lo ricorda né mamma, nessuno se lo ricorda, quell'affare lì. Nonostante fosse una cosa già moderna, era un telefono senza bisogno di fare il numero, prendeva il pulsante e ti rispondeva al 113. E c'era il lampeggiante arancione sopra, quelle cose strane. Tu comunque i 50 non li hai raggiunti allora? No, no, raggiunti, però eppure da piccolo ci andavamo in tram, anche per andare a Platamona con mamma a certe volte, però non ricordo il colore, è una cosa che ho dimenticato, verdi non me li ricordo, non mi sovviene. Guarda, io mi ricordo quelli della Scia, così si chiamava all'epoca, che andavano a Platamona, che erano azzurri, erano anche quelli Fiato M, quelli bombati per intenderci, mentre invece in Piazza Castello c'erano i taxi, che all'epoca c'erano quelli a tre ruote, no? che erano un'ape praticamente. Solo che erano chiusi, sul tetto c'erano il portabagagli, l'imperiale cosiddetta, e non mi ricordo quante, si aveva tre porte, una per fare entrare il passeggero, quello non me lo ricordo, però erano delle moto a tutti gli effetti, tre ruote. Sì, proprio sto cercando di ricordare, ma forse no, non ci badavo, forse che non ci ho fatto caso, perché poi sai, noi bene o male macchine in famiglia abbiamo sempre avute, quindi ben poco li usavamo i tram, autobus, come li vuoi chiamare, sai, tram e crocebinari. Va bene. Vediamo se vuole entrare qualcuno, se è entrato Natalino, Claudio, Bombolo, tutto tace. Sai perché ti ho detto tardisse prima? Bah, un rientro in... Ecco. Perché il vecchio dottor U, dico già se è dottor U con quello dei capelli abbondanti, io quella la chiamavo cabina telefonica, però qualcuno mi aveva detto che doveva essere una specie di cabina speciale per chiamare solo la polizia, come poteva essere quella palina che ti avevo detto in Piazza Castello, ma è vera sta cosa? No, quella torretta a mo' di fungo che c'era a Sassari era un citofono con 113 in pratica, e poi ovviamente l'hanno demolito, essendo dalla polizia, figurati, a quell'epoca si distruggevano tutti. Quella che dici tu, la cabina telefonica, invece era una cabina telefonica, non era per la polizia. La polizia negli altri stati, diciamo, c'era spesso il telefono che si vede in molti film, no? Che c'era la chiave, era riservata ai poliziotti quando non c'avevano la radio appresso, quando ancora i portatili non erano diffusi. E quindi c'erano la chiave, aprivano e telefonavano alla centrale. Quindi insomma ci si ingegnava in tanti modi a quell'epoca. Non so perché, mettendo tardisse Dottor Who, quello anni 70, primi 70, mi porta sempre queste foto, anche modellini, no? Police Box. Praticamente era come una cabina telefonica, e tu entravi dentro, avevo le porticine, quindi avevi una certa privacy, però c'è scritto Police Box, come se fosse proprio una cosa per chiamare la polizia a contatto diretto, come fosse... Vabbè, ma poi controllerò, dai. Vabbè, che erano comunque identiche alle cabine telefoniche, cambiava solo la scritta. Che tra l'altro quelle cabine telefoniche sono abbastanza famose perché è presente in molti film di spionaggio, anche in 007 se non ricordo, in cui tu entravi dentro, premevi un pulsante e questa cabina scendeva e veniva sortita da un'altra cabina. Però dubito che qualcuno non se ne accorgesse, ecco. Era una cosa molto, molto fantasiosa. Bene, bene, bene. Io sono stanco di parlare, io che anche qualcuno a parlare, così ascolto. E addirittura ti stanca anche a parlare. Insomma, c'è anche una certa età da... in cui uno inizia a pensare alla pensione. Sì, la pensione proprio. Vabbè, allora ma la gente non va a lavorare perché c'è il reddito di cittadinanza. Io ero favorevole, però vedendo che molti proprio non vanno a lavorare perché non ci vogliono andare, molti rifiutano anche il lavoro. Quindi non credo che lo stesso di cittadinanza ti dia contributi per la pensione. Ah beh, a me non mi riguarda perché io non lo percepisco, Avanti il break, oh, ciucu ciu. Buongiorno, buongiorno, come mi senti, Marco? Sì, sto usando l'antenna sopra il tetto, la canola pesca. Allora, smitter cristalli liquidi 9 più 10, quindi prendila per buona, Antonella. Notavo però che c'era una notevole differenza tra la canna da pesca, io l'altro giorno stavo ascoltando, l'avevo vista anche sul tetto la canna da pesca, tra la canna da pesca e la verticale c'è già una differenza notevole, mi pare di ben 3 Santiaghi, tipo, che ne so, col 3009, da 9,5 a 9,15 se non 9,20, una differenza notevole, e quindi non so come stia lavorando con la canna da pesca, sembra molto attenuato come segnale, sembra quasi che stia lavorando come una bazooka. Vai Antonè, ti ascolto così così, dai, la radio non è perfetta, ma... Guarda, ti ho detto ieri sopra il tetto, mi sono guardato l'avanto da Marco e ho visto i due bulloni e l'avanto da cazzo, due sono arrivati due all'interno. E siccome sono saliti tecnici, due settimane prima, ecco perché ho detto che l'avanto da sta lavorando male. Che cos'era? Mi avevo smollato i bulloni, hai capito? Forse c'era l'intenzione di togliermi la manto e piantare la parabola nel palo mio. Cioè, l'hai trovata toccata? Sì, ja. I due bulloni smollati ho trovato ieri. Infatti sono salito con la trice e li ho stretti di nuovo. Capito? Non si mollano solo due bulloni, se si mollano si mollano tutti e quattro. E invece solo due erano smollati. Completamente quasi smollati erano. Forse avevano l'intenzione di piazzare la soglia e mi la manto, ma mi a metterci la parabola sopra se trovate questa roba. Vabbè Antonio, ma com'è possibile, scusa, tu le antenne ce l'hai praticamente in casa, c'è quel piccolo terrazzino lì, cioè da dove sono entrati? Passano dal tetto, dalle tegole. Sono passati da me, sono passati, capito? Con la scafa, con la parabola, siccome la parabola che c'era prima l'hanno... la penna si chiama, la parabola qui, non è tonda, è diversa, capito? E io ho detto, non saranno accorti in pratica che volevo piazzare la parabola dove c'era anche la baracchino, ho detto, guarda che la parabola non va bene di Dio adesso, perché anche la baracchino è agganciata con tre staffette, gli ho detto, al gancio della pipetta, gli ho detto. Forse quello che aveva in testa di staccarne la mano e metterci la parabola sopra il palo dell'acqua. Non, ha detto a me, non si va. Ha aiutato, ha detto, lì c'è andato nel barattino di malerio, gli ho detto. Ha detto, ti prendo una tartaffa, gli ho detto, una tappizzetta, poi scendi giù, c'è il negozio, ti prendi quattro tasse e ci metti, se c'è una tappizzetta e ti metti la parabola del condominio. Non ha giocato questo, se poi dovrai farlo io. Non sarei macco, gli ho detto. Forse stavano, siccome io mi sono distratto in pratica un'oretta perché sono uscito, non è che posso fare senza sono fatto da controllare. E evidentemente stavano già smollando, ho capito. Se metterci di togliermi la mantova e metterci la parabola loro sopra. Sì, successo. Vabbè, cose capitano, nel milione di condomini anche. Vai Gianfranco. Sì, ciao Antonello, buonasera. Non capisco perché sta arrivando così basso, ma poco fa infatti non ti ho sentito, ho dovuto togliere la squelcia, sei di intorno alle 6-7 al massimo. Cosa stai usando? Qualche portatile? No, sto usando la cosa. Più che 1009. No, adesso sei salito di colpo. Cosa hai toccato? Adesso sto usando la Mantovana a tubo. La Mantova sto usando adesso. In pratica la... appena salto, un po' più avanti della Mantova, sarà un metro e mezzo più avanti, capito? L'ho agganciata ieri sera. Però boh, se mi dice che non, mi senti più basso con quell'altra, vuol dire che non sta agendo quell'antenna. In ricezione però funziona bene, perché il segnale tuo è forte, anche quello di Marco. No, è proprio basso. Se ricomuti ti dico il segnale esatto più o meno. Allora, questa è la Mantova, aspetta. E questa qui è la canna da pesca. Guarda un po'. Poca roba. Da 6,5-7 a 9 spiccioli. Con questa sono 6,5-7, così è. Sì, molto basso, ho detto che con lo squelch praticamente non ti si sente, con la mano da me, e con l'altra invece è tutto un altro pianeta. Aspetta, voglio controllare una cosa. Non mi ricordo se vogliamo funzionare questa cosa. Stazionare 2 ciò. Con la canna da pesca, stazionare 2. Visto qualcosa che non va, cioè. Quanto perde con 2? 10%, non di più. Non giustifica un segnale così ridotto, però. Strano, perché prima c'avevo testato nel terrazzino e la differenza era 5 dB, a quanto mi ricordo. Invece adesso ce l'ho messa sotto il tetto, nel palo dove c'era la antenna del VHF, capito? Dovrebbe guadagnare qualche cosettina in più, invece è tutto al contrario. Vabbè, se domani vado rientro, domani sera salgo soprattutto lo stacco. Prima che mi arrivi qualche passata di vento me la provo in terra. Hai capito? Boh, pensavo che la giravo la meglio in terra. Guarda Marco, nei parametri che nel manuale di istruzioni del ricetrasmettitore Schwarz, l'accettazione delle stazionarie massime è pari a 1,4. Quando stai già parlando di 2 di stazionarie, il livello di potenza, anche in base alla frequenza, diventa veramente grosso. Quindi se 2 c'è già una perdita consistente di RF. Ma più del 10%, in percentuale grosso modo quanto può essere? Io lo sapevo il 10%. Non so di dove l'ho messa perché non mi fido molto. Capito? Poi ti volevo dire, stavo guardando su YouTube, c'è una ragazza che ha dato 3 baracchini a aggiustare a un tipo di Ussie, Tiziana. Io non me lo ricordo Tiziana di Ussie, la verità, che modo la di la Ussie. 3 baracchini mi sembra che sono, uno mi sembra Saturneca, se non mi ricordo, e l'altro è altri 2 baracchini, quelli modello vecchio. Sarà roba d'altri. Comunque, rispondendo a Marco, è molto molto oltre sicuramente il 10%, il 10% è quasi il 99, credo che il percento di trasferimento di potenza lo hai intorno a 1,1, sempre con strumenti di misura professionale. Poi se sali già a 1,4, credo che scenda intorno ai 90, che sono il 10%, quindi figurati quanto è frazionare a 2. Oh, addirittura, boh, vabbè, dopo mi guardo un po' di forum, sono un po' arrugginito. Vabbè Antone, ascolta, il mio segnale forse è forte perché sono un credo 10 watt, aspetta che potrei mettere i classici 3 watt se riesco. Allora, così potrebbero essere le mie condizioni solite, 3 watt utili qua giù, poi dell'antenna non so quanti ne escano, magari ne sia uno seppure. E se 9,25, da 9,28 a 9,25 si è passato, con la mantova. Adesso l'unica cosa volevo fare è uno di queste giorni, dato che se c'è uno salire soprattutto a attaccare la canna da pesca, gli metto quella radiale che manca, così almeno sono più tranquillo. Una domanda veloce, poi le lancio Gianfranco, ma quella canna da pesca l'hai fatta tu o è comprata, l'hai autocostruita, comprata, fatta, com'è? Perché vabbè che è un po' più bassa, però caspita, che sia così, mi sembra una bazooka come resa, ripeto. Non lo so, la verità. No, me l'aveva fatta Luca qui per quell'antenna, me l'aveva costruita. L'avevo usata, dietro di cosa la usava Giovanna, lì nel terrazzino usciva bene. È strano. Mentre adesso ce l'ho messa sopra il tetto, non lo so, magari sta riflettendo, magari la bobina forse è più vicina al tubo metallico, cosa ne so, sarà per quel motivo lì, capito? Adesso vabbè, tra l'altro ormai devo staccarla più che altro, perché non è che mi fido molto di lasciarla sopra il palo così, cazzo, se arriva a vento forte me la trovo giù nel piano di sotto, me la trovo, quindi non mi fido, la stacco e la conservo, al limite se la uso la pianta con la tappata come si deve e dovrebbe vendere. Ma rispetto e dalle con questo oriento al ricevitore, farò dire con questa, cioè questa antenna comunque è più bassa, cioè non è alta quanto la mantova, è sul palo, quella è messa più in basso, no? Molto più in basso, se non è cambiato, io così l'ho vista giorni fa. No, quando l'hai vista, nel terrazzino, se la guardi domani mattina già la vedi nel palo, già si vede quando sali via Carlo Felice, ci sono 3 metri di palo, ci sono, capito? Quindi l'ho messa direttamente sopra per fare la prova ieri, capito? Poi invece, vabbè, sono diventato tardi, sono passato l'anico, sono diventato tardi e non ho potuto provarla. Tutto lì. E adesso domani sera al limite stacco sopra il tetto, lo ristacco. E non è, mi fido molto, capito? Se me la trovo giù, se vive qualche passata di vento forte, via, è la birola. Sembra la spacca. Antone, ma dove ci sei tu? Che si vanno le antenne? Non c'era Pier Giacomo una volta? Nel palazzo di fronte, sì. C'era Pier Giacomo, c'era. Anche Coso, ci ha abitato qua per un anno e mezzo, mi sembra. Anche la TCB che rimaneva proprio di fronte alla CUI, in quella palazzina bassa. Ma non mi ricordo il numerativo adesso. Comunque Giacomo qua aveva pensato la direttiva, ci aveva, poi la Diamond che l'aveva installata, dopodiché è arrivato questo vento forte, a me me l'ha stracciato completamente il palo che avevo comprato nuovo della Matova 5, a lui proprio gli ha buttato giù la Diamond, gli ha fatto 3 pizzi. Sì, infatti ricordo così. comunque eravate tutti sul lato, cioè andando verso l'ospedale da lì, o verso il bar come preferisci, che c'è all'angolo, tu sei sempre sulla sinistra. Sì, sempre, io sono sopra, che posso dire, sopra il negozio di che vende materiale elettrico, sono amico, proprio all'ultimo piano dove c'è la mansarda, sono io. Se guardi dove, quello che vende materiale elettrico qua sotto, che prima era grande e poi adesso si è venduto metà pezzo, e poi a fianco c'è Andrea, cioè, prima era nell'angolino stretto, adesso invece si è comprato tre pizzi e si è allargato un bel, capito? Sì, se non ricordo male c'è anche un discone, è possibile? Il discone ce l'avevo pensato io, non l'avevo staccato, l'avevo regalato a Marino quel discone, era di mio cognato, ma non andava bene qua, l'ho provato, non dicevo un accidente, ma comunque trasmetteva bene. Poi guadagno zero, e poi adesso costano anche un pacco di soldi, non so giù niente, è meglio uno stile qualsiasi, guarda, e niente, era così. Perché io ti ricordavo in realtà sempre in via, com'era, non mi viene, vabbè, dove c'è comunque di fronte all'ingresso dell'ospedale, quello là, ex manicomio, cos'era, però sul palazzo di fronte, che più su credo che ci sia un negozio di ricambi dei elettrodomestici, se non ricordo male. In pratica l'ultimo palazzo a sinistra era quello dove abitavo io, l'ultimo piano. Poi dietro di me ci abitava Roberta, che parlava baracchino, Roberta e Kitty, e via Monsignor Saba, e poi l'altro CB era via Cadena Fossati, e poi di fronte a me, lì di fronte a Pilo ci abitava un altro CB, Roberto, che adesso c'era l'unica Firenze 2 caricata era. Praticamente Pomponi modulava direttamente dalla cella imbottita. Infatti da dentro. No, lì veramente modulava Gavino Passero, quando andava in macchina si metteva lì, proprio all'uscita delle... si metteva lì con Baracchino, parlava, quindi figurati, poi invece lì alla fine di Via Italia, dove c'era il fornitore, lì si metteva Elio Bravucciani, se ti ricordi, la buon'anima, modulava con la macchina sua da lì. Ce ne sono state, ce ne sono state, tanta gente oramai non c'è più. Che tempi. A proposito di antenne abbandonate, Antone, ti volevo chiedere, io passando lì in via Gavino Matta si vede ancora un'antenna, certo un po' piegata, che era di un tassista che modulava da viale Principessa Iolanda. Tu ti ricordi come si chiamava quel tassista lì? Mi pare che la moglie gli faceva da base, gli mandava le chiamate per la... C'è ancora l'antenna, mi dopo 40 anni. No, perché pensai, no, tu stai dicendo la Mantova e c'è lì vicino a Coso, alla farmacia di Via Fermi, stai parlando, lì c'è una Mantova, quella è di un tassista che aveva venduto tutto l'appartamento, l'ha lasciato l'antenna di là sopra, è ancora bella tettera lì, e poi di fronte se a lui ci abitava quel ragazzo cieco, che l'altro fratello era a San Giovanni. No Antone, qua a un tiro di balla, via Principessa Iolanda, angolo via Gavino Matta, almeno per quanto ricordo io faceva il tassista, e c'è un'antenna tutta piegata, ci avrà minimo 30 anni se non 40. è tutta un po' piegata di lato, ma non è mai caduta. E una te, vabbè, quella quando fanno il 110%, in quella palazzina saliamo su e ci facciamo dare l'antenna, cosa vuol dire? Se riesce a smontarla intera, se no bisogna che vai con la mola. No, non per quello, è tutto vecchiume quello, ormai l'antenna non ce ne sarà più. No, era la curiosità di ricordare il nominativo. Mi splatterava i tempi che avevo il multimode 3, mi faceva tanto di quel battimento che non hai idea, una cosa terrificante, battimento 0 su 40 canali. Figurati, è bello, me. Quando con la questione del 110% sai quante antenne puoi salire a staccare, quanti ne vuoi? Ci rimbalzano la scelta, tanto stanno facendo cantieri a tutto andare, ogni giorno ne sorge uno di questi cantieri, prima non ce l'avevamo ancora, adesso tutti fanno l'impresario qua. Sì, basta che non siano impresari improvvisati. Ne stavo parlando l'altro giorno con Carlo, mi pare, il 110%, ed eventuali rischi se i costi dovessero aumentare troppo e l'impresa dovesse abbandonare. Boh, quello temevo io, che poi ci dobbiamo accollare le spese. Non so bene come funzioni, quindi potrei aver detto una cazzata. Vai Gianfra. Sì, neanche non so qualcosa di quella di quelle cose lì. Accidenti, sto zampando, non mi scelta. Certo, ci sono quelli che ti fanno uscire in testa da quando sono con tutti questi cose di memoria. È un casino. È così. Ma ho apparecchio, adesso ci ho messo appena una settimana. Non ho capito, ci ha messo una settimana ad arrivare o cosa? No, l'apparecchio è arrivato subito. Sono stato io una settimana a programmarlo, perché quando vai a programmarlo poi ci scappa sempre l'errore. Ed è veramente una cosa allucinante. Vabbè, poi quelli sono anche apparecchi particolari, capito? Non è come questi...